Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi in diretta con me ci sono Mire Lucchetti, Isotta Scena in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Commenti, domande, suggestioni, critiche al 349-238-66 con gli sms. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Giampaz, il mio personale. E poi la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Allora, la vicenda che voglio raccontarvi quest'oggi è una di quelle vicende che forse più di tutte negli ultimi anni ha scosso la Cina. È una vicenda giudiziaria, ma anche profondamente intrisa di toni politici. Il processo a Bo Xilai si è aperto questa mattina. Doveva concludersi in poco tempo, in realtà pare che andrà un po' per le lunghe, quasi a sottolineare che insomma la sentenza che scaturirà da quel tribunale è una sentenza importantissima per la recente storia, per la storia contemporanea cinese. Però prima, giacché nel GR avete sentito le ultimissime venute dalla Siria, credo che sia importante, di fronte a quelle immagini tremende che sicuramente avete visto, farsi delle domande. E credo che la domanda principe da farsi in queste situazioni è: a chi giova? Cioè, perché l'esercito siriano, perché Assad avrebbe dovuto proprio a poche ore dall'arrivo degli ispettori dell'ONU che devono proprio indagare sull'uso di armi chimiche tirare questo incredibile autogol? C'è questa opinione un po' fuori dal coro che viene riportata da Repubblica quest'oggi, questo esperto militare inglese che dice: è possibile che siano stati gli stessi ribelli ad appropriarsi di queste armi chimiche, che pare non sia nemmeno sarin ma un altro tipo di gas letale, e l'abbiano utilizzato loro stessi. Perché? Per far superare quella linea rossa che è stata tracciata dalla comunità internazionale, Stati Uniti in primis, dicendo: attenzione, se usate le armi chimiche noi interverremo. Allora, in omaggio, lo ripeto con grande correttezza, ma in omaggio alla domanda cui protesta, chi giova, allora sicuramente in questo caso gioverebbe alla composita formazione ribelle siriana. L'altra cosa che mi viene da dire, e questa è fuori discussione, come quei cadaveri che abbiamo visto, che ancora una volta la comunità internazionale stenta a prendere posizione e stenta a risolvere questa crisi incredibile che dura veramente da troppo tempo. Questa è la mia personalissima opinione su quello che sta avvenendo in Siria e sulla guerra anche delle immagini e della propaganda. Vi dicevo, questo incredibile processo che sta appassionando tantissimo anche i cinesi. Allora, iniziamo e andiamo in Cina. Security was tight around the courthouse in China's Jinan. E in particolare andiamo a Jinan, dove ha sede questo procedimento giudiziario, e ci andiamo con Beniamino Natale, corrispondente ANSA. Beniamino, buongiorno, ben ritrovato, ben trovato a Nessun Luogo Lontano. Eccoci qua. Allora, Beniamino, la prima domanda è: che aria tira lì? Qual è l'atmosfera della città e lì, nei dintorni del tribunale? Beh, la città è di fatto in stato d'assedio, c'è un numero spaventoso di poliziotti in divisa e in chiese, è tutta stata completamente chiusa e possono accedere solo quelli che vanno in tribunale. E noi giornalisti con un tesserino, però siamo relegati su un marciapiede fronte al cancello principale, non ci possiamo muovere. Ecco, e questo dà la misura. Sì. Ci sono state queste manifestazioni di supporto di Bocilai, dei pochi, ma nemmeno tanto pochi, insomma, perché a gruppi di 10-20 hanno fatto questi, come si dice, questi cartelli, slogan, canti, insomma un'atmosfera abbastanza pesante. Ecco. Ecco, in realtà hai prevenuto quella che era la mia domanda proprio relativamente a questi sparuti gruppetti di sostenitori di Boschilai. È anche vero che, data la situazione cinese, anche vedere 10, 15, 20 persone che manifestano in quel modo è già una notizia, è vero? Scusa, non ho sentito una parte della domanda. La linea non ci supporta. Dicevo che già... Già vedere 10-20 sostenitori, no? Che manifestano in maniera evidente, in maniera palese, è già una notizia per la Cina. Sì, sì, una cosa assolutamente insolita per la Cina. No, questo è si dice che sia il più importante processo politico dopo quello della Banda dei Quattro, ma la grande differenza è la Banda dei Quattro è odiata da tutta. Purtroppo erano tutti contenti di vederli. Beniamino, purtroppo la linea non ci sta per niente supportando. Proviamo a richiamarti. E nel frattempo do il mio buongiorno e il mio benvenuto a Antonio Talia, ex corrispondente AG China 24. Si è fatto a Pechino quasi 7 anni, giusto Antonio? Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora Antonio Talia, Fra l'altro, fresco di pubblicazione, chissà se si può dire così quando il libro è un libro elettronico, no? Fresco di pubblicazione, no, sì. Fresco di pubblicazione no, però insomma sì, è un online. Diciamo online. Allora, in cui affronti, ricordami il titolo, abbi pazienza, ce l'avevo qui da qualche parte, l'ho perduto. I giorni del dragone, un anno di intrighi politici a Pechino, che è un ebook edito da Informant, e appunto racconto tutto quello che è successo per arrivare al processo Boschilai, perché il 2012 è stato l'anno dei grandi scandali politici in Cina che sono culminati proprio nel processo al quale stiamo assistendo in queste ore. Ecco, vediamo nel frattempo se a Jinan riusciamo a riraggiungere Beniamino Natale. Beniamino? Eccoci. Oh, stavolta ti sentiamo perfettamente. Stavamo analizzando quegli sparuti gruppi che però sono un segnale di un supporto che Boschilai ha tuttora. Sicuramente, e soprattutto a Chongqing, la città dove è stato capo del partito, ha lanciato questi suoi schemi di la lotta alla criminalità, la riscoperta del maoismo, ma anche edilizia popolare, eccetera, eccetera, insomma cose che l'hanno fatto, gli hanno conquistato una grande popolarità, no? Dicevo, l'ultimo grande processo politico prima di questo è stato quello della Banda dei Quattro, ma in quel caso era entusiasticamente approvato dalla popolazione, in questo caso un po' meno, insomma, quindi è molto importante per il partito uscirne bene. Allora, prima di ricapitolare meglio, quali sono i fatti che hanno portato questo importante uomo politico dagli allori fin dietro le sbarre? L'ultimissima domanda per Beniamino Natale dell'ANSA e Lia Jinan a seguire il processo, quando si potrebbe avere la sentenza secondo te? Si dice domani, dopodomani? Ufficialmente non è stato detto niente, quindi di fatto non lo sappiamo. C'è stata una notizia della CCTV, che è la televisione di Stato, sì, secondo la quale verrà messa in settembre. Quindi addirittura. Però il processo si potrebbe chiudere. Però non è ufficiale, cioè la Corte non ha detto niente, diranno qualcosa domani. Ho capito. Ma invece la CCTV non parla di sua iniziativa, come dire, qualcuno gliel'ha detto, quindi è probabile che sia così. Sì. Grazie mille Beniamino Natale per questo tuo racconto, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Lì in quel di fronte. Ciao, a quel tribunale blindato. Allora, vi dicevo, è utile ricapitolare quali sono gli eventi, lì è un giallo scaturito dalla penna virtuosa di un grande scrittore, perché questo processo miscela veramente cronaca nera, tinte di giallo, intrighi politici e quant'altro. Ascoltiamo. Il 64enne Boschilai era uno dei massimi leader del Partito Comunista Cinese, prima di finire coinvolto nel più grande scandalo politico della Cina contemporanea. Figlio dell'ex leader Bo Ibo, che servì come ministro delle finanze nei primi anni della Repubblica Popolare Cinese, Boschilai era a capo del partito di Chongqing, una metropoli della Cina sud-occidentale, membro del potente Politburo e uno dei 25 funzionari di partito più alti del paese. Soprannominato il Principe Rosso, è stato una figura di spicco della vita mediatica cinese grazie al suo carisma e alla predilezione per i riflettori. Bo Xilai cade in disgrazia nel febbraio del 2012, quando il suo braccio destro e capo della polizia di Chongqing, Wang Lijun, si rifugia nel consolato statunitense di Chengdu e accusa Gu Kailai, la moglie del potente politico, dell'omicidio di Neil Haywood, un uomo d'affari inglese trovato morto in una stanza d'albergo della città. Il processo Gu Kailai viene istruito nell'agosto del 2012 e la donna, rea confessa, è condannata all'ergastolo. Le modalità della confessione e il procedimento legale lasciano però più di un dubbio sulla vicenda, a partire dalla mancanza di un solido movente. Lo scandalo travolge Bo Xilai, che non solo viene espulso dal partito, ma è anche accusato di abuso di potere, corruzione e appropriazione indebita. Insomma, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, da questo primo tratteggio comprendete l'importanza di questo processo. È utile però con Antonio Talia, ex corrispondente di Asia China, che conosce molto bene quel paese perché vi ha vissuto per ben 7 anni. È utile forse iniziare a indagare quelli che sono i lati oscuri di questo processo. Antonio, dicevamo nella scheda che abbiamo ascoltato prima, insomma, già il movente non era esattamente chiaro per l'omicidio da parte della moglie di questo uomo d'affari. Detto che Gu Kailai, la moglie di Bo Xilai, che tra l'altro era un celebre avvocato prima della condanna, avrebbe ucciso questo uomo d'affari britannico per ragioni di denaro. Insomma, Neil Haywood sarebbe stato un faccendiere al servizio della famiglia di Bo Xilai, con il compito di trasportare all'estero ingenti somme di denaro ottenute attraverso la corruzione. E però appunto sul movente, nel corso del processo a Gu Kailai, non si è indagato più di tanto, anche perché appunto, come raccontavate, si è trattato di un processo che si è concluso in un giorno, con Gu Kailai che ha subito confessato. E sul processo a carico di Bo Xilai e su tutta la vicenda Haywood, su tutta la vicenda dell'omicidio Haywood, ci sono molti punti oscuri. Il primo è che si tratta di un processo indiziario, non ci sono stati dei rilievi tali sul cadavere da portare a una certezza assoluta. Il cadavere di Haywood è stato subito cremato. Si è detto che Neil Haywood sarebbe stato assassinato tramite un avvelenamento da Gu Kailai, però è scoppiata una controversia attorno a questo punto, cioè Wang Shuimei, che è uno dei più importanti medici legali cinesi e la vice direttrice dell'Istituto Cinese di Medicina Legale presso la Corte Suprema, che si è occupata delle indagini sul cadavere di Neil Haywood, si è dimessa. Già l'anno scorso, come racconto anche nell'ebook I giorni del dragone, aveva espresso le posizioni molto critiche e qualche giorno fa si è dimessa dalla posizione che occupava, dicendosi disgustata dalle conclusioni ridicole e false che sono state raggiunte nel corso delle indagini sul caso Haywood. Nessun luogo è lontano. E torniamo a Jinan per un processo che ha aperto i battenti quest'oggi e la cui sentenza, abbiamo ascoltato dalle parole di Beniamino Natale dell'ANSA, si potrebbe avere a settembre, ma che già sta dispiegando alcuni dei suoi dirompenti effetti. Ad esempio 20-30 persone, pensate un po', che manifestano di fronte al tribunale, ma dato il teatro, il contesto cinese, è già qualcosa di parecchio significativo. Stars crashing. Invece con Antonio Talia stiamo cercando di comprendere meglio quali sono i punti oscuri dell'intero procedimento giudiziario che da un lato ha portato in carcere per tutta la vita la moglie Gu Kailai per l'assassinio di quest'uomo d'affari britannico e dall'altro ha portato di fronte al giudice Bok Silai, il marito di Gu Kailai, accusato di, fra le altre cose, di corruzione, di aver tentato di abuso d'ufficio, ha tentato di coprire le indagini su quell'assassino, secondo l'accusa. Antonio, ci sono tanti mattoncini in questa costruzione giudiziaria che scricchiolano, no? Proviamo a riassumere sinteticamente gli altri. Già hai aperto un bel faro su quella scena del delitto. Sì, oltre alla questione insomma del cadavere di Eguto ci sono anche le testimonianze. Sostanzialmente il processo a carico di Gu Kailai, quello per sugli aspetti, sui reati di appropriazione indebita, di corruzione, si regge su due super testimoni. Ora, in Cina molto spesso avviene che in casi di questo genere, in casi penali di questo genere, il testimone non compaia fisicamente in aula, ma ci si basi esclusivamente su delle testimonianze scritte, che quindi possono essere, se il testimone non deve rispondere alle domande della difesa in aula, è chiaro che la sua testimonianza può essere estorta in qualsiasi modo. E proprio su questo punto oggi, nel primo giorno di processo, Bo Xilai ha ribattuto colpo su colpo. Chi si aspettava che Bo Xilai si dichiarasse colpevole come la moglie si è trovato invece di fronte a una brutta sorpresa, perché l'ex leader è apparso molto in forma, molto padrone della situazione, ha bollato le testimonianze dei due imprenditori che lo accusano di corruzione, di aver sottratto, di aver preso delle mazzette sostanzialmente, ha ribattuto colpo su colpo a queste accuse, sì. Ha bollato addirittura uno dei due come un pazzo, che è un imbroglione, che lo ha denunciato semplicemente per salvarsi dalle accuse rivolte contro di lui. E poi c'è tutto lo scenario politico. Sostanzialmente non dimentichiamo che Bo Xilai, prima di incappare in questo sensazionale caso giudiziario, era una delle persone che sarebbe potuta diventare uno dei 9 uomini più potenti della Cina, sarebbe potuto entrare nel Politburo. Sì, nel comitato permanente del Politburo. Le sue politiche, come raccontava anche Beniamino Natale dell'Ansa, avevano un certo appoggio popolare, specialmente a Chongqing, la megalopoli che lui ha governato per tutti questi anni. E un altro punto oscuro arriva sostanzialmente proprio dalla situazione politica. In sostanza Bo Xilai godeva dell'appoggio di tutta una serie di settori dell'economia e anche dell'esercito ostili a una serie di riforme che la nuova leadership cinese che si è insediata nel novembre scorso sta portando avanti. Parliamo di riforme di tipo economico, come una maggiore liberalizzazione dei servizi, una maggiore liberalizzazione della finanza. Quindi in qualche modo quando oggi stamattina in aula Bo Xilai ha detto chiaramente che l'intero processo è un processo montato e che le prove portate a suo carico sono false, sono ridicole, sta puntando il dito contro l'attuale classe dirigente cinese. Si può pensare però, e questa è anche un'altra delle voci che circolano, che in qualche modo si sia raggiunto un qualche tipo di accordo tra i nuovi leader, tra i leader che appunto attualmente sono al potere e Bo Xilai. Questo da che cosa si può desumere? Innanzitutto il processo a Bo Xilai arriva con un anno e mezzo di ritardo rispetto ai fatti. Mentre la moglie Gu Kailai è stata condannata in fretta e furia l'anno scorso, per arrivare al processo di Bo Xilai ci è voluto un anno e mezzo. E quest'anno e mezzo tu dici c'è stata una contrattazione, c'è stato un sì, braccio di ferro nascosto tra... Potrebbe lasciar intuire questo, uno scenario di questo tipo, sì. Questo perché in qualche modo Bo Xilai gode ancora di un qualche tipo di seguito popolare, come abbiamo visto. E da leader carismatico, da vecchia volpe della politica cinese, che non dimentichiamo si regge su degli equilibri molto sottili, in qualche modo potrebbe avere anche degli elementi in suo possesso a carico degli attuali leader, quindi di elementi che potrebbero provare il loro coinvolgimento in altri tipi di scandali. Questo chiarissimo. È uno degli scenari possibili. Chiarissimo, Antonio. Allora, quanto questo processo sia veramente una prova di forza anche politica è una delle tesi che sostiene il professor Steve Tsang, che insegna storia contemporanea della Cina, dirige il China Policy Institute a Nottingham e che abbiamo raggiunto. La prima domanda è proprio un commento su questo processo a Bo Xilai. E dice: questo processo è totalmente politico ed è talmente importante per il Partito Comunista Cinese che da questo processo dipende la carriera di tutti i giudici in Cina, compreso il presidente della Corte Popolare di Jinan. E poi dice: i documenti del processo sono già stati redatti e approvati dalla Commissione Permanente del Politburo e lo stesso verdetto sarà discusso con i funzionari di partito più alti. L'altra domanda che ho fatto al professor Tsang è quanto questo processo e anche l'attenzione mediatica, pur limitata da quella che è la censura cinese, può essere un problema per il partito, cioè quanto si può incrinare la solidità e la compattezza del Partito Comunista Cinese. Sentite. Well, not very much, because before the trial was... Non molto, dice, non parecchio in verità, perché prima dell'istruzione del processo tutte le testate giornalistiche hanno ricevuto le dovute istruzioni su come trattare l'argomento direttamente dal partito. Perciò diranno solo quello che i vertici vogliono che si dica. No Chinese media organization is allowed to report independently. A nessun medium cinese è permesso di coprire l'argomento in modo indipendente e ovviamente anche i media occidentali non sono ammessi al processo, come anche abbiamo sentito dalla voce diretta di Beniamino Natale dell'ANSA. E prima di tornare da Antonio Talia, perché Questa vicenda giudiziaria è davvero complessa e apre uno squarcio, io credo, molto molto interessante su quella che è la realtà cinese. Per noi, per chi non la studia, per chi non ci lavora, per chi non ha rapporti costanti, è estremamente lontana, estremamente complessa da decodificare. E a inizio trasmissione parlavamo anche con Beniamino Natale di questo supporto popolare di Bo Xilai lì davanti alla sua corte, mentre fuori qualche sparuta decina di manifestanti faceva sentire la sua voce. E allora ho chiesto proprio questo al professor Tsang. Ascoltiamo. Well, Bo Xilai does enjoy significant support within Chinese. E come sentite, dice, Bo Xilai gode di un supporto significativo all'interno della società cinese. Bisogna poi considerare che molta gente che mostra pubblicamente solidarietà per questo leader non lo sta necessariamente appoggiando in quanto persona, ma sta magari manifestando il proprio dissenso e malcontento contro la leadership del partito e il suo modo di governare il paese. Quindi dice: bisogna tenere in mente entrambi questi aspetti, dal momento che la Cina non è più un sistema totalitario, ci sono ancora delle persone che sono in grado di protestare nonostante il massiccio impiego di forze di sicurezza approntato per minimizzare qualsiasi dissenso. Chissà se il processo a Bo Xilai segna la prima crepa nel monolitico Partito Comunista, nel sistema giudiziario cinese. I media occidentali lo seguono per come possono, come abbiamo ascoltato, quelli cinesi lo fanno secondo precise direttive. Indagheremo anche questo aspetto, sempre con Antonio Talia, ma subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. Il più importante processo politico della Cina contemporanea ha aperto i battenti questa mattina a Jinan, città dell'est del grandissimo paese, del colosso asiatico con grande attenzione da parte dei media. Perché? Perché questo gravissimo scandalo politico e questo processo nascondono evidentemente una lotta intestina all'interno di chi governa il Partito Comunista Cinese e ovviamente anche il paese. Stiamo cercando di addentrarci nelle pieghe di questo avvenimento giudiziario. Grazie soprattutto a Antonio Talia, ex corrispondente AG China, per anni ha vissuto a Pechino, quasi 7 anni. E con soprattutto gli interventi del professor Steve Zhang, che insegna storia della Cina contemporanea, dirige il China Policy Institute dell'Università di Nottingham, che avete sentito come abbia battezzato con i toni esclusivamente politici questo processo. Allora, l'ultima domanda che ho fatto al professor Zhang era: dopo questo processo come può cambiare, se cambierà, il Partito Comunista Cinese? Well, if the trial goes according to the script, then practically nothing. Praticamente niente, dice. Se il processo andrà come è già stato scritto, non cambierà praticamente nulla. Il partito sta semplicemente ridefinendo le sue relazioni pubbliche in termini di credibilità e legittimità. Il partito non sta operando alcun cambiamento ed è proprio per questo che devono far fuori simbolicamente, nel senso metterlo dentro più che farlo fuori, uno come Bo Xilai, perché è un cane sciolto, dice il professor Zhang, un elemento che ha deciso di seguire la sua strada invece di seguire le decisioni prese dalla leadership, scusate, del partito a Pechino negli ultimi anni. Antonio Talia, interessante, no? Quest'ultima analisi del professor Zhang. Insomma, un cane sciolto, scomodo alla leadership attualmente in carica, e quindi eccolo lì di fronte ai giudici a tentare di difendersi e a farlo, come ricordavi tu, anche a muso duro, insomma, non le manda certo a dire. Sta rigettando tutte le accuse e peraltro Antonio ha detto, siccome in un primo momento, alcuni mesi fa, aveva ammesso in parte delle sue colpe, ha detto: sono stato sottoposto a pressioni eccessive, la mia mente era completamente annullata da queste pressioni, ho ammesso delle colpe, adesso sta rigettando tutto. Sì, stamattina ha ritrattato tutte le accuse relative appunto alla protezione indebita, alla corruzione. E soprattutto è interessante la descrizione che fa il professor Zhang, perché Bo Xilai è stato veramente un cane sciolto della politica cinese. È stato un politico che ha studiato lo stile di determinati leader occidentali, come per esempio Bill Clinton. È un leader carismatico che sa porsi di fronte alle telecamere, sa parlare, laddove invece in generale nella leadership cinese l'anonimato viene visto come un valore, e poi ha improntato una campagna personalistica della quale in qualche modo si vedono gli effetti ancora adesso, cioè le voci che filtrano da Chongqing, la capitale, la megalopoli sulla quale lui ha comandato fino a poco tempo fa, ci dicono che anche quest'anno, all'inizio di luglio, in segreto si sono svolte delle celebrazioni per festeggiare il suo compleanno. Questa politica personalista, che è stata vista in un certo senso quasi come neomaoista, perché non dimentichiamo che Bo Xilai ha effettivamente lanciato tutta una serie di politiche sociali che hanno fatto molto piacere alla popolazione di Chongqing, era sgradita al partito. Da qui però a farne un eroe del libero pensiero ce ne passa. Ribadisco, Bo Xilai è una vecchia volpe della politica cinese che ha intercettato degli umori nella popolazione che cambiavano. È stato il primo, per esempio, a parlare di coefficiente di Gini, quindi di eccessive disparità fra la popolazione ricca e la popolazione povera. Sì. Ha intercettato questi umori della popolazione, di quella popolazione che sostanzialmente sostiene che i valori del Partito Comunista, i valori maoisti, sono stati un po' abbandonati dalle nuove leadership, li ha cavalcati. E anche grazie a questo straordinario carisma personale è riuscito a far, e anche ovviamente grazie a grandi appoggi economici in certi settori dell'esercito e dell'industria, e alla sua storia personale, come ricordavate è il figlio di uno dei più importanti leader dell'era maoista, è riuscito a farsi strada e a proiettarsi fino ai vertici della politica cinese, finché non è incappato in questo scandalo. Ecco, come si riesce a leggere, no? Da con un grand'angolo messo nel punto di osservazione, vedere un uomo che è figlio comunque di questo sistema, che in qualche modo allarga i gomiti, no? Allarga le spalle, cerca di cambiarlo, occhieggia un po' l'Occidente perché piglia dei modi, delle tecniche di comunicazione. Fra l'altro era un uomo anche sempre molto elegante, dicevi, molto carismatico, era anche un viveur. Fra l'altro il figlio invece è più noto, studia negli Stati Uniti per condotte molto più sfrenate, no? E com'è possibile che un uomo come questo, che esce da questo sistema, allarga un attimo i gomiti e poi viene immediatamente risucchiato? Vuol dire che inesorabilmente il sistema è non solido, più che solido? Sì, in qualche modo sì, sicuramente lo stesso caso Bocilai lo dimostra. Contemporaneamente però il partito, il governo cinese si regge in qualche modo su una serie delicata di pesi e contrappesi, da quello che ne capiamo, perché ovviamente si tratta di trattative che vengono tenute segrete, delle quali si possono comprendere gli effetti magari solamente a distanza di anni. In qualche modo il processo Bocilai dimostra da un lato che il sistema è solido e sta espellendo il corpo estraneo rappresentato da questo leader. Dall'altro lato però c'è il fatto che il processo si stia svolgendo con questo ritmo, con la possibilità di concessa a Bocilai di rispondere, come dicevamo prima, a muso duro, eccetera, in qualche modo può significare che l'appoggio popolare nei confronti di Bocilai c'è ancora. Xi Jinping, il presidente, il nuovo leader, ha lanciato questa campagna anticorruzione. Ha detto che nella campagna anticorruzione bisogna colpire tanto le mosche che le tigri, quindi tanto i funzionari corrotti di piccolo livello, basso livello, quanto quelli più importanti. Bocilai è in qualche modo la prima vittima della campagna, il primo leader di grande importanza a essere colpito, ma contemporaneamente in questo gioco di pesi e contrappesi che c'è all'interno del Partito Comunista Cinese, è anche la dimostrazione che non si può governare un paese così basso senza tenere conto degli interessi di tutta la popolazione. E questa è la grande prova, no, a cui è chiamata la dirigenza cinese sicuramente nei prossimi anni. Un paese incredibile per vastità, per crescita, per disparità sociali, che in qualche modo Bocilai, insomma, aveva sapientemente colto e cavalcato. Vedremo la sua odissea come si concluderà. C'è chi dice la pena di morte sarebbe esclusa, forse sta trattando chissà nel gastolo, forse una pena detentiva lunga ma non tutta la vita. Antonio, chissà. Possiamo capirlo domani, perché lui oggi ha rigettato tutte le accuse relative ai reati di appropriazione indebita e di corruzione. Se domani invece comincerà ad ammettere qualcosa relativamente all'omicidio di Dean Haywood, che lo ricordiamo è la parte più oscura di tutta la vicenda, allora forse può darsi che in qualche modo si sia tenuto, questa è una ipotesi chiaramente, un negoziato sotto banco per chiedere a Bocilai di farsi da parte senza troppi danni per lui e per la sua famiglia. Insomma, una specie di buon salva condotto. Vedremo allora come evolverà questa odissea. Grazie a Antonio Talia, ex corrispondente di Agi China da Pechino. Lo potete leggere, vabbè, Agi, Panorama e altri. Vi ricordo anche il suo ebook, se volete capire meglio gli anni del dragone, quest'anno di intensi scandali politici. Grazie Antonio, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Saluto a tutti gli ascoltatori. E allora abbiamo pochi minuti, ma giusto per ricapitolare alcuni eventi che stanno accadendo in queste ore, giorni. E partiamo dallo Zimbabwe, perché ad Harare, la capitale dello Stato dell'Africa Australe, in pompa magna, chi ha giurato? Ha giurato Robert Mugabe, il nuovo presidente, perché si è svolto, vi ricorderete, chi ci segue, abbiamo raccontato quelle elezioni. Sesto mandato dopo oltre 30 anni alla guida del paese, l'89enne si prepara a proseguire le sue politiche, non senza però grandi contestazioni da parte dell'opposizione e l'Unione Europea che aspetta il report degli osservatori per capire insomma, se le elezioni si sono svolte convenientemente. Sempre in Africa, ma parecchi chilometri più a nord, vi riporto in Tunisia per aggiornarvi sulle vicende di Amina, vi ricorderete, no? Quel personaggio che a molti fa simpatia, a tanti fa antipatia perché dicono è troppo costruita, cerca solo visibilità. Non c'è dubbio una cosa, che delle cose le stia smuovendo e dei temi li stia portando a galla. In una Tunisia che vive un momento delicatissimo, lì in bilico tra l'anima più laica e quella islamista dettata da Ennahda. Bene, cosa ha fatto Amina? Si è fatta fare altre foto su Facebook a seno nudo, è libera da alcuni giorni, lo devo ricordare, però ha detto basta con le femen. Perché? Perché sono islamofobe e perché non è chiaro da dove arrivano i soldi a questa organizzazione. E quindi Amina, dura e pura, ha detto io non ho niente a che fare con queste ucraine a seno nudo. E poi sempre col fiato sospeso a capire cosa sta accadendo in Egitto, perché la liberazione di Mubarak è attesa a momenti, poche ore, si diceva due ore, ma per il momento ancora non se ne ha notizia, mentre è interessante sottolineare come parecchi sostenitori di Hosni Mubarak stanno affollando l'area antistante la prigione di Tora, dove è attesa appunto la liberazione tra pochissimo. La prigione è in un quartiere, in un sobborgo a circa 20 km a sud della capitale. Sono così rispuntati, si rifanno vedere i sostenitori di Hosni Mubarak. E allora abbia tempo per i saluti, quelli sì, eh. Il tempo stringe, però il tempo mi consente di ringraziare Mire Locchetti, Isotta Scenna in redazione a confezionare con me anche la puntata di oggi. Gianmarco Ferronato a sottolineare con le musiche anche il racconto di quest'oggi. L'appuntamento è per domani, ore 13:15, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.